vita è una salita da fare a testa in giù. Ecco perché chi voglio sei tu. Dicono che è più facile vivere senza un perché, ma io scelgo te. Sei tu che mi fai vivere ed io lo so, un'ora senza di te morirei. La vita nel mondo vita non è, ecco perché scelgo te. Ma voglio dirti di sì, come hai fatto tu. Ecco perché scelgo te. Io ci voglio credere. Non ho niente da darti, non ho niente da dire. Sono un sasso che grida. È inutile dire posso fare tutto, se dentro di me poi mi sento distrutto. Io confido in te. Fra le mille passioni il momento peggiore, gli ostacoli tu mi fai essere migliore. Non è facile ma scelgo te. Sei tu che mi fai vivere ed io lo so, un'ora senza di te morirei. Quel che posso spendere è solo l'anima mia.